Un altro? Per te la causa è sempre quella. Il voodoo. Lucas non lo sa. Ma il padre di mio padre diceva che quando i morti usciranno dalla tomba, i vivi saranno il loro sangue. Andiamo, non ha senso. È una stupida superstizione. Hai ragione, dottore. Tu sai molte più cose di Lucas. Io mi rifiuto di credere che il voodoo possa far tornare in vita i morti. E io non credo che i morti siano morti.